Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi che scontri non se ne segnalano, forse mente un po' più fredda, riusciamo anche a ritornare sulla TAV e mi riferisco chiaramente alla Val di Susa. E avremo, come anche chiesto da voi, non c'è nessun problema, un unico ospite, visto che altre volte abbiamo avuto un unico ospite a favore, un unico ospite contro la TAV e fermamente contrario all'opera in sé. Chiarirò anche all'inizio il perché chi vi parla invece è fermamente convinto che pur con tutti i disagi, pur anche con un impatto ambientale, non si scava una galleria in una roccia senza impatto ambientale, l'opera sia necessaria e non vada confusa con altre opere, ognuno poi la può pensare come vuole, vedi il ponte sullo stretto di Messina o il Mose a Venezia, che pure hanno dei grandi sostenitori, ma che erano opere che nascevano come desiderio, iniziativa nazionale. Qui di mezzo ci sono i TEN, i Trans European Network, i corridoi europei per far aumentare merci e passeggeri. Tutti i paesi europei hanno firmato, tutti i paesi europei li svilupperanno, e quindi non è una volontà nazionale di fare una nuova galleria tra Torino e Lione. È un'esigenza, o meglio, una richiesta che arriva dall'Europa. Uno ci vuole stare, la fa, non ci vuole stare, si taglia fuori dai corridoi europei, però poi non lamentiamoci di altre cose. Di questo la chiarisco subito in maniera molto trasparente, questa è la mia opinione su questo, che è chiaramente e nettamente diversa da quella dell'ospite che tra poco avremo. Dopo la TAV parleremo della borsa, che oggi va bene, più 0,90%, e bene anche Parigi più 1,5%, bene Londra più 1% e Francoforte più 0,90%, l'America più 0,90%, l'euro è un recupero a 1,43,63, in recupero molti titoli tra cui Campari più 4,80, Fondiera Assai oggi respira a 2,20€, più 4,70%, Tods più 2,5%, Impregilo più 2,5%, Unicredit più 2,20, Fiat più 2 come Fiat Industrial, quindi camion e trattori, Intesa più 1,70, Pirelli più 1,30 come Mediolanum ed Exor, l'1,20 lo guadagna Enel, l'1% Buzzi, Unicem, lo 0,80, Ansaldo, STS e anche Eni. Fronte opposto, Monte dei Paschi meno 4,60, Prismian meno 2,5, Banco Popolare meno 1,40, come Luxottica, l'Automatica meno 1,1, Popolare di Milano meno 1%, Ubibanca meno 1%, Autogrill meno 0,80%. Ancora, per quello che riguarda i temi, oltre appunto alla TAV e alla borsa, parleremo anche della manovra finanziaria, perché c'è un pre-consiglio dei ministri alle 18.45, molti gli elementi che sono usciti, alcuni anche un po' contraddittori, ne parliamo tra pochi minuti nelle headlines e poi alle 18.10. E 10 come approfondimento. Leggo subito un messaggio, so che sarà una puntata difficile sulla TAV. Sei favorevole alla TAV perché non passano sopra casa tua. Anche questo è vero, nel senso che se lasciamo che solo chi è direttamente coinvolto decida sulle grandi opere di interesse nazionale e internazionale, non ne usciamo più. È chiaro che se a me proponete di fare la TAV con un pilone che mi entra nel giardino, la mia risposta è sicuramente no, ma è la mia risposta individuale. Esiste un interesse nazionale in questo paese oppure esiste una somma di microcosmi individuali? Boh, comunque, notizie in breve. Oro invariato sui mercati asiatici, $1,500, comunque forte l'oro anche perché sono previsti rialzi sui timori di un peggioramento della crisi greca. Il petrolio è in rialzo a $91,7 al barile, però sempre ampiamente sotto i $100 al barile. E oggi aumentano comunque le accise. Questa cosa delle accise sulla benzina è una cosa incredibile, perché ha fatto tempo la benzina a calare perché sono calati i prezzi del petrolio, che da oggi partono 4 centesimi in più al litro di accise sui carburanti per fronteggiare l'emergenza immigrati. Lo ha deciso l'agenzia delle dogane, sottolineando che la decisione di aumentare le accise sulla benzina e sul gasolio nasce dalla necessità di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale determinato dall'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. Le nuove accise aumenteranno per la benzina, aumentano per la benzina a 600,11 euro per 1000 litri, da 570, per il gasolio da 470 euro per 1000 litri contro i 430. Così fino al 30 giugno. Poi invece dal 1 luglio aumenteranno ancora le accise trovare i fondi per il decreto, per il fondo, scusatemi, unico sullo spettacolo, e quindi saliranno ancora a 613 euro per 1000 litri per la benzina e 470 euro per 1000 litri per il gasolio. Noi paghiamo ancora le accise per la guerra in Abissinia, per la crisi del canale di Suez, per il disastro del Vajont, per l'alluvione di Firenze, per il terremoto del Belice, per il terremoto del Friuli, per il terremoto dell'Irpinia, per la missione in Libano dell'83, per la missione in Bosnia del 96 e per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri. Se tanto mi dà tanto, anche quando sarà finita la crisi del Nord Africa, Libia, gli sbarchi degli immigrati, resteranno le accise. Vedo già dei messaggi, va bene, è ovvio che c'è qualcuno che scrive: bello il suo discorso sulla TAV, chi gliel'ha scritto? Berlusconi e la Marcegaglia. Beh, aggiunga anche Bersani, visto che il PD quando era governo era assolutamente favorevole alla TAV Torino-Lione. Poi su come realizzarla, su come parlare con le comunità montane, adesso vi arriviamo, un attimo di pazienza. Io non so, abbandoniamo i ragionamenti ideologici, cerchiamo di ragionare e basta. Andiamo avanti con le notizie invece. La Germania e la Cina hanno firmato contratti per 15 miliardi di dollari. Oggi li ha firmati il premier cinese Wang Jiabao con vari gruppi, tra cui Daimler, la Volkswagen, la Siemens e la BASF. Wang Jiabao però ha anche parlato del debito europeo, delle crisi dei debiti europei, e ha detto si può superare la crisi del debito sovrano europeo con le riforme, ho fiducia nell'euro, siamo pronti a investire nei paesi più deboli dell'area euro. E ha poi confermato che la Cina acquisterà ancora alcune quantità di debito sovrano, cioè comprerà BOT, BTP dei paesi più deboli, tra cui Spagna, Portogallo. Tant'è che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto: la Cina ha grande interesse nella stabilità dell'euro. Questo nel corso della conferenza stampa congiunta con appunto il premier cinese Wang Jiabao. E poi l'Unione Europea che dice solo con un sì immediato al piano per salvare la Grecia si evita il fallimento della Grecia. Sono ore decisive, ha ripetuto anche il presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy. Tra l'altro ieri a Roma è stato presentato il piano francese per gestire il debito greco, un buon successo devo dire tra gli operatori. I titoli greci in scadenza tra il 2011 e il 2014 verrebbero rimborsati interamente, ma le banche e assicurazioni che detengono questi titoli reinvestirebbero su base volontaria il 70% di quanto incassato in due strumenti, cioè una parte in titoli greci trentennali e un'altra parte in titoli trentennali con garanzie della BEI. Insomma, una cosa un po' complicata, però vede il rimborso totale del debito greco, però le banche che tra virgolette volontariamente rigirano parte di questo rimborso in strumenti che poi servono a far reperire liquidità alla Grecia stessa. E poi sarebbero 15 sulle 91 banche europee sottoposte agli stress test quelle che non li avrebbero superati, non avrebbero superato la prova. Tra le banche bocciate, secondo la Reuters, ci sarebbero banche tedesche, portoghesi, spagnole, greche, e invece le 5 banche italiane coinvolte nei test, Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, UbiBank e Banco Popolare, dovrebbero invece aver superato il test vero e proprio. Ancora due note sulla manovra, andiamo molto rapidi. Mentre oggi di nuovo sono saliti i rendimenti nell'asta di BTP italiana, buona però la domanda. Il ministro Bossi, leader della Lega, ha detto che il governo rischia con questa manovra, quando gli è stato chiesto come è andata il vertice, gli è stato chiesto circa un'ora e mezzo fa il vertice di maggioranza sulla manovra, ha detto insomma così. Noi siamo riusciti a ottenere il patto di stabilità per i comuni virtuosi, di modificarlo. Qui ci interessava il patto di stabilità innanzitutto. Quello c'è in maniera da permettere ai comuni che hanno un sacco di miliardi di poterli spendere. Il governo rischia ancora? Rischia fin quando è passato. Ebbene, sulla manovra bisogna lavorarci ancora. E in questo istante è uscito un flash di agenzia che dice la manovra dovrebbe essere di 1,8 miliardi per il 2011, quindi molto più bassa rispetto alle prime stime, di 5 miliardi e mezzo per l'anno prossimo, e siccome ci vogliono 40 miliardi per questa manovra, se ne fai soli 7, ma leggo assieme a voi l'agenzia, se ne fai 7 tra 2011 e 2012 vuol dire che devi fare gli altri 33 tra il 2013 e il 2014, il 2013 è un anno elettorale. Comunque, da quello che si è capito, ci dovrebbe essere il blocco dei turnover nella pubblica amministrazione per un anno, esclusi i corpi di polizia, i vigili del fuoco e l'agenzia del fisco. Congelato l'aumento degli stipendi della pubblica amministrazione fino al 2014. Una specie di via libera alla liberalizzazione delle professioni, ma insomma reciterebbe il testo della bozza. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni sono abrogate dopo l'entrata in vigore di questo decreto, tranne che per architetti, ingegneri, avvocati, notai, farmacisti e autotrasportatori. Anche un'ipotesi di privatizzazione della Croce Rossa decorre dal 1 gennaio 2012. E poi anche il ministro Romano ha confermato che dal prossimo mese i ministri non avranno lo stipendio, avranno solo quello da parlamentare. E si sta facendo anche un tentativo, aggiunto Romano, di far pagare di più chi ha di più, il primo contributo lo daranno le banche. Il ministro Sacconi ha escluso che vi fosse un aumento dell'età pensionabile per le donne. E poi non si capisce ancora bene sull'IVA, visto che il ministro Romani aveva detto che era da escludersi un aumento dell'IVA. Ancora nel frattempo, come oggi su molti giornali, ieri la provincia di Milano ha deciso di alzare dal 12,5% al 16% l'addizionale sull'RC auto. Anche di questo parliamo dopo, quando facciamo la manovra. Adesso primo tema, auguri al sottoscritto, l'alta velocità, ossia tutto quello che sta capitando sulla tratta Torino-Lione. Situazione più calma oggi per fortuna la Maddalena di Chiomonte, dove ieri le forze dell'ordine hanno sgomberato, come mai sapete tutti, il presidio anti-TAV, ma andiamo sui numeri. Stanno proseguendo quindi le operazioni per aprire il cantiere, un'area di 36.000 metri quadri, per realizzare il cunicolo esplorativo. Sono 7.500 metri, 7 km e mezzo, largo 6 metri. E qui chiarisco subito il mio punto: avrà un impatto ambientale, è inutile raccontare la TAV verrà fatta con i ciclamini, i cipressi e le rose. Se tu devi aprire un cunicolo intanto di 7 km e mezzo e devi trasportare fuori 300.000 metri cubi di materiale roccioso, è chiaro che crea un disagio a chi ci abita e c'è un impatto ambientale, come qualunque opera infrastrutturale lo ha. L'altra obiezione, quindi, impatto ambientale, serve o non serve, e ripeto, non l'ha decisa l'Italia, è un accordo europeo sui corridoi di trasporto. L'altra obiezione è costa tanto. Allora, in effetti, pur essendo per il 63% in tratta francese, noi ci siamo accollati i due terzi dell'onere, e questo obiettivamente potrebbe essere discusso con la Francia, cioè a noi costerà, doveva costare inizialmente 6 miliardi e 7, i costi sono complessivamente la tratta, sono già lievitati a 9 miliardi, per cui noi pagheremo almeno 5 miliardi, i francesi 3 miliardi, qualcosa più di 3 miliardi, l'Italia va chiesto, la Francia non si è ancora pronunciata, di riequilibrare i costi. Sul beneficio economico, anche qui vi dico che l'effetto a breve mi interessa molto poco. Nel San Bernardo, nel Brennero, che verrà pure raddoppiato, ma non ci sono i comitati no Brennero, non so perché, né tutte le altre opere infrastrutturali possono essere misurate su 5-10 anni. La Confindustria di Torino ha stimato 7-8 mila posti di lavoro in più e un punto percentuale di PIL fino al 2022, ma ripeto, fosse anche la metà, un'opera come questa la valuti sui decenni, non sugli anni. La mia posizione più chiara non poteva essere, questa è una risposta anche al professor Marco Ponti, molte volte nostro ospite, che dice, ma insomma costa troppo rispetto ai vantaggi che ne abbiamo avuto, che ne avremo. Presidente Sandro Plano, buongiorno. Buongiorno, presidente della Comunità Montana Val Sangone Val di Susa. Lei, pur essendo del PD, è stato tra gli amministratori più critici sulla TAV Torino-Lione. Allora, prima domanda. Qui scontri con la polizia per iniziare i lavori per il tunnel esplorativo di 6 metri lungo 7 chilometri per capire in sostanza come è fatta la struttura rocciosa. In Francia hanno già completato i tre interventi analoghi previsti: la galleria esplorativa Modan lunga 4 km, l'hanno finita nel 2007, la galleria esplorativa La Praz lunga 2 km e mezzo, l'hanno finita nel 2009, la galleria esplorativa Saint-Martin de la Porte l'hanno finita nel 2010, 2 km e mezzo. Domanda: sono pazzi sti francesi a bucare le loro montagne? No, assolutamente, nella loro logica fanno benissimo. I pazzi siamo noi. I pazzi siamo noi, lo cantavano anche, ma mi spieghi perché? Ho sentito prima le trasmissioni, una cosa credo che sia da evidenziare. Si parla di una manovra da 40 miliardi, no, come cappello introduttivo, e si parla di quest'opera che costerà nel suo complesso, pare, perché le cifre sono sempre molto ballerine, si trattano in certe volte di miliardi come noccioline, dai 15 ai 17 miliardi l'opera complessiva. Allora, si rende conto che quasi metà della finanziaria che stanno il governo... Sì, noi abbiamo cifre un po' diverse. Dai 6 miliardi complessivi è salita a 9 per la tratta sia italiana che francese. Ma diciamo, immagino che la vostra non sia un'obiezione sui conti pubblici. Ma guardi, noi siamo cittadini della Valle di Susa e cittadini italiani. Italiani. Quindi, ovviamente, siamo afflitti dalla sindrome NIMBY, perché come tutti... i valligiani hanno grande cura del loro territorio e quindi lo difendono da interventi esterni. E lei giustamente diceva, non sarà uno scherzo, o non sarebbe uno scherzo. No, nessuna grande opera infrastrutturale lo è. Si parla di un volume di materiale scavato pari a 8 piramidi di Cheope. Lei ha idea cosa vuol dire movimentare 8 piramidi di Cheope in una valle come la nostra? No, non ho dubbi che vi saranno dei grossi disagi allora, per voi. Cominciamo a partire da questo. Allora, se partiamo da questo punto di vista, che avremo dei grossi fastidi, avremmo. Questo è in dubbio. Fastidi per 8 e 10, 20 anni, allora lei mi dica perché noi dovremmo essere contenti. No, ma guardi, la mia domanda non è questo. Io non ho mai immaginato che voi siete contenti. Allora, cominciamo a dire che siamo giustificati a non essere scontenti. Ci mancherebbe. Credo che questo sia un punto di partenza corretto, no? Allora, noi saremmo scontenti, ma diciamo rassegnati, se fossimo convinti che quest'opera ha effettiva utilità, serve effettivamente all'Europa. E le ripeto, noi siamo già stati bombardati dalle infrastrutture, siamo la valle come la Val d'Aosta, che è già sede di una ferrovia dopo binario, che è sede di un'autostrada, che è sede di innumerevoli centrali idroelettriche, autoporti, linee elettriche, eccetera, eccetera. È arrivato a un certo punto, diciamo, basta, siamo stufi. Sì. Credo che sia anche una questione. Allora, le faccio una domanda, mettiamola così. Lei ha mai preso recentemente un treno ad alta velocità in Italia? Sì. Ecco. Sì. Allora, le avrà fatto comodo andare da Milano a Bologna o da Torino a Milano? No, aspetti, le spiego perché. Perché scrivono molti ascoltatori, per esempio da Modena, c'è stato un pezzo d'Italia che andava da Bologna a Milano, soprattutto Modena e la parte di Reggio, che è stato un cantiere unico per degli anni, perché l'alta velocità non l'abbiamo costruita in 2 mesi, e con espropri anche lì. Adesso c'è la parte che riguarderà la Milano-Venezia. È ovvio che se abitassi io, così rispondo anche a quegli ascoltatori, in quelle zone lì lo vedrei come un incubo, le dico di più, neanche come un dispiacere, come un incubo vero e proprio, trovarmi camion che movimentano terra, le imprese e quant'altro. Però esistono nei paesi civili anche le compensazioni per questo motivo. I suoi corregionali piemontesi non corregionali, ci mancherebbe, ma insomma parte dei suoi corregionali, altri no, hanno avuto dei grandissimi benefici dall'alta velocità Torino-Lione, fin troppi. Si sono fatti rotonde, passaggi a livello, svincoli autostradali faraonici. Mi dica. Guardi, che noi di rotonde, di passaggi a livello, di tutte queste cose ne abbiamo persi in troppi. Siamo pieni di rotonde, siamo pieni di passaggi a livello, quindi questi qui non sono benefici che ci interessa. Perfetto. Allora, io posso parlare anche da abitante della Valle di Susa. Certo. Se ho una casa che vale X adesso, con una linea ferroviaria ad alta velocità, per 20 anni la mia casa vale mezzo X. E questo è giusto che venga compensato? Ma infatti questo non è compensato, perché vengono espropriati e vengono pagati i danni relativi a delle opere nell'arco dei 30 metri della linea ferroviaria. Tutto il resto, tutta la perdita dei valori immobiliari, tutte le seccature, in termini di polvere, di movimento di cantiere, non viene compensato. Quindi io ho la prospettiva, io come cittadino della Valle di Susa, certo, ho la prospettiva di avere 20 anni di rotture di palle, per usare in termini francesi, diciamo, crudo, senza alcun tipo di vantaggio immediato. Quindi la mia incazzatura è giustificata. Ma questo non è il punto, cioè io ho chiarito fin dall'inizio. No, ma attenzione, poi finisco. Certo. Allora, a fronte di questa incazzatura che è giustificata, io dicevo, se avessi la percezione di salvare l'umanità, allora potrei anche rassegnarmi, ma vedo che in questo caso specifico la linea attuale è percorsa da 80 treni e ne può avere 226. Abbiamo un traforo internazionale che collega con la Francia, che è percorso da 3.000 tir al giorno e ne può portare 7.000-8.000. Allora, non c'è nessun tipo di saturazione del corridoio 5 esistente. Non c'è nessun tipo di saturazione del corridoio esistente. No, mi scusi, ma l'alta velocità Torino-Lione non esiste. L'alta velocità, senta, fra Torino e Lione adesso ci sono 3 treni, 3 coppie di treni, 3. Io se devo andare a Roma, guardi, prendo l'aereo che costa meno e arriva prima. Allora, tutta questa fobia dell'alta velocità non ha un preciso riferimento economico e un preciso modello di sviluppo. Perché prima hanno tentato di giustificarlo con l'alta velocità. L'alta velocità di per sé era ingestibile in termini economici, perché lo sviluppo dei collegamenti fra l'Italia e Francia, che adesso è garantita da 3 coppie di treni, non potrà mai giustificare nessun tipo di ritorno economico. Per le merci, allora, se le merci arrivano con 3 ore di ritardo piuttosto che 4, 5, 10 ore, non cambia assolutamente nulla. Ma facciamo anche 2 giorni, ma perché limitarci alle 4-5 ore? Allora cominciamo a toglierci. Ma che ragionamento è? Piano, facciamo una cosa, adesso io ho il metodo e la pubblicità, ma adesso, che così come capisco tutta la vostra rabbia, preoccupazione, perché ripeto, toccasse a me, avessi la casa io lì, sarei imbufferito personalmente, quindi massima comprensione per questo, e secondo me se ci sono dei margini sulle compensazioni, fate bene a chiedere le compensazioni corrette, e lei citava il caso dei 30 metri, va benissimo, ma lei non mi può dire vabbè, ma poi a che serve questo corridoio 5? Perché allora decidiamo che l'Italia non ha bisogno del corridoio 5, che è una cosa molto semplice. Voglio dire, l'Europa decide a un certo momento che ci vogliono i corridoi via treno, non via gomma, visto che poi molti sono ambientalisti, stavolta sono via treno, corridoi veloci. Questo va da Lisbona a Kiev, deve passare anche per l'Italia, deve, lo dico io, perché sennò i francesi e i tedeschi sono già pronti a farlo di là dalle Alpi. Tutto a posto, voi mi dite, ma che serve questo corridoio 5? Ho capito, ma non è che facciamo decidere alle comunità locali l'interesse nazionale. Mi dà una risposta dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Diciassette e quaranta minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'intervista con il presidente della comunità montana Val Sangone, Val di Susa, Sandro Plano. Allora, vediamo se riesco a ristabilirlo. Il punto è molto semplice. Capisco tutto, la vostra arrabbiatura e quant'altro, ma un conto è se lei mi dice: guardi, le compensazioni che ci hanno dato non vanno bene, i 30 metri previsti come distanza massima, i disagi che subiremo, disagi anche poco, insomma, per molti anni non possono essere trattati in questo modo. Altra cosa, Plano, è se lei mi dice: ma il corridoio 5, sta TAV, non serve a niente. Perché questa cosa qui, lei può pensarla così, io posso pensare che invece serva, ma non spetta a noi decidere. Ci sono accordi europei e c'è quello che si chiama interesse nazionale, non interesse degli abitanti della Val di Susa o di Sebastiano Barisoni o di Sandro Plano. Cioè non facciamo questo di lavoro, io e lei. Facciamo fare ai politici bene il loro lavoro, a livello europeo, a livello nazionale. Se si decide che l'Italia deve stare... Va a votare per il divorzio, facciamo un referendum nazionale sulla TAV. No, ma mi lasci parlare. Prego. Allora, lei come cittadino concorre alle decisioni che investono, certo, l'Italia? Bene. Allora, io come cittadino, adesso non come amministratore locale, ti dico che il corridoio 5 c'è. Allora, c'è una ferrovia a doppio binario, ci sono due trafori autostradali, quindi il corridoio 5, il collegamento fra Kiev e Lisbona, adesso c'è. Si tratta di modernizzarlo, ma il corridoio c'è. Piemonte non è isolato, Torino non è nel Burundi. Allora, si parla di questo. Poi se lei mi fa un altro ragionamento, che le opere pubbliche servono per fare economia, allora questo è un concetto keynesiano. Va bene? Siamo d'accordo su questo? Certo. Bene. Allora io le dico che conviene investire per ridurre il costo del lavoro, per produrre macchine da vendere in Cina, cosa abbastanza difficoltosa, ma investire in strade e non investire sul costo di lavoro, dal mio punto di vista di cittadino italiano, è un errore. Ma questo va benissimo, cioè io posso pensare che sia sbagliato investire in agricoltura. No, Plano, un attimo, lei può pensare come vuole, ma fino a prova contraria fa il presidente della comunità montana, non fa il ministro dell'economia, mi scusi, che parliamo uno per volta, se no non ci capiamo. Nessuno ne non fa, diciamo, l'economista, e non ha fatto il piano quinquennale sullo sviluppo di questo paese. Purtroppo non l'ha fatto neanche il ministro dello sviluppo economico, se è per questo. Allora io le dico, finché lei mi parla dei vostri problemi e mi dice... Questi non sono solo nostri problemi, no. Attenzione, le ribalto la questione sulle compensazioni. Io le dico che se noi abbiamo un disagio avremo diritto alle compensazioni. Giusto. Allora, giusto. Noi stiamo dicendo, non vogliamo il treno, quindi non chiediamo le compensazioni. Capito. Punto, ok? Vabbè, allora. Un altro punto, allora, se c'è il treno ci devono essere le compensazioni, ma quelle che ci sono promesse adesso sono chiacchiere. Ma questo è un punto serio. No, attenzione, guardi, in questa nazione noi sono 15 anni che sentiamo la promessa della riduzione delle tasse, che è una chiacchiera. Sentiamo dell'acquisto di una casa a Lampedusa, che è una chiacchiera. Ma allora, cosa c'entra? Questo rapporto, non dico il rapporto fra il centro-destra, ma il rapporto col governo in questa situazione in cui sono necessari 40 miliardi di manovra finanziaria e vengono a prometterci un miliardo di compensazioni, queste sono chiacchiere. Allora, incominciamo a partire da questo punto di vista. Mi scusi, io non capisco una cosa. Allora, intanto riesce anche a farmi difendere Berlusconi, che la casa a Lampedusa l'ha comprata, e non capisco cosa c'entri con il nostro ragionamento. Le spiego un'altra cosa, Plano. Ho detto, lei come presidente della comunità montana ha tutto il diritto A ad essere seccato per questi lavori, B a dire, beh, almeno visto il disagio grosso che avremo, dateci le compensazioni serie, e fa benissimo a dire staremo lì a vigilare che queste compensazioni arrivino e siano anche, diciamo, compensazioni fatte con criterio, non fatte con la logica dei 30 metri che ricordavo prima. Fa benissimo a dire questo, ma fate iniziare i lavori, perché se lavori... Ma a me sembra che lei, al di là delle compensazioni, lei l'ha detto molto chiaramente, Secondo lei il corridoio 5 c'è già? Io le dico che non è così perché non è ad alta velocità. I Trans European Network sono reti. Mi faccia finire. Le do la parola, ma mi fa finire? Me la abbassate, se no riesco a parlare. Allora, i Trans European Network sono reti europee ad alta velocità. Non è la rete ferroviaria che c'è già. Non è che siamo tutti un popolo di deficienti a livello europeo che abbiamo scambiato reti esistenti per reti che vorremmo. C'è un progetto che va da Lisbona a Kiev. Lei mi può dire a me non me ne frega nulla. Io le posso dire che invece sono interessatissimo a andare da Torino a Lione con l'alta velocità e quindi c'è la mia opinione contro la sua. Il punto è che finché voi chiedete le cose che riguardano il suo ruolo, cioè la valle deve avere compensazioni, io vi seguo. E quando mi dite tanto la TAV non serve, tanto il corridoio 5 non serve, che non vi seguo più, perché non siete voi che dovete decidere se serve o no. Siete, casomai facciamo un referendum nazionale, non della Val di Susa. Prego, Plano. Vabbè, mi lasci parlare. Adesso sì. Perché io, a me, nella sua opinione, guardi, sono molto interessato, però l'ha già espressa anche prima. Allora, io le sto dicendo che a livello di compensazione stiamo assistendo ad una serie di chiacchiere, perché un primo punto, che era quello, l'impegno del governo di potenziare il trasporto pubblico locale, che è carente, allora con una sottoscrizione da parte del governo della regione di 300 milioni di euro sull'investimento sul trasporto pubblico locale, dopo 5 anni hanno stanziato 20 milioni. Allora di fronte a queste chiacchiere, le ripeto, chiacchiere, noi non ci fidiamo, primo punto. Secondo punto, io ritengo di avere il pieno diritto di esprimere la mia opinione sulla politica dei trasporti, ok? Allora, che se ne dica, la politica dei trasporti e il corridoio 5 non riguarda l'alta velocità, riguarda un sistema di trasporto e di collegamenti, ok? Allora, in questo caso, viste le condizioni dell'economia, visto l'andamento del PIL previsto nei prossimi anni, io le dico che il sistema di collegamento attuale è più che sufficiente. E se l'Europa va dal culo, per usare un termine Senta, le posso chiedere, Plano, cosa ne pensa della variante di valico e della tangenziale est a Milano e della pedemontana? Cioè, si sarà fatto un'idea anche su questo? Perché a questo punto lei mi deve dire che ha un'idea su qualunque opera infrastrutturale di questo paese, se no fa solo il suo giardino e va benissimo. No, mi dica cosa pensa della variante di valico a Barberino e Mugello e cosa pensa della pedemontana, se deve essere interrata oppure no, perché scopro che lei ha interesse in tutte le opere infrastrutturali del paese. Prego. Le dico ed esprimo dei pareri sui punti che conosco. Allora, questo caso lo conosco benissimo e quindi sono in grado di esprimere un parere. Sulla pedementare, sulla variante di valico, non conosco niente, quindi non mi permetto di esprimere dei pareri. Cioè, quindi lei ha fatto lo studio di quello che sarebbe la movimentazione merci potenziale tra Lisbona, Kiev, da qua ai prossimi 20 anni, e con il centro studi Alta Val di Susa avete scoperto che non serve il corridoio 5. L'ho fatto io, l'ho fatto un documento sul Sole 24 Ore. Marco Ponti, l'abbiamo avuto ospite. Vabbè. Non Marco Ponti, il Sole 24 Ore ha fatto un documento in cui si dice che la logistica al di sotto dei 1000 chilometri non conviene su ferro. Conviene infatti ferro. Secondo me tra Lisbona e Kiev i chilometri sono un po' più di 1000. Ma cosa c'entra? Vabbè, dai, ho capito, buona, niente. Io speravo di ragionare, glielo dico con molta speravo di ragionare su quello che voi, come giustamente, come cittadini che vengono coinvolti da un'opera. Allora, e siete voi, sono gli emiliani, sono i veneti, non ci sono solo gli abitanti della Val di Susa. Tra l'altro non ricordo proteste ai tempi delle Olimpiadi nelle valli piemontesi, lì evidentemente erano altri tipi di opere che avevano un altro impatto sul territorio. E ripeto, immagino che anche nel 1865, quando hanno iniziato a bucare le montagne tra Italia e Francia, ci fosse. Però io speravo che lei mi dicesse: guardate, noi siamo disposti a venirci incontro. Ma se lei mi dice che tanto è contrario comunque al corridoio 5, che non serve. Senta, io non sono contrario comunque. Io sostengo che in questo momento particolare, investire su questo tipo di infrastrutture non è prioritario. Non è prioritario. Allora abbiamo non solo in valle, ma in tutta Italia, delle necessità di investimento sull'edilizia scolastica per adeguare alle norme antisismiche, sull'assetto idrologico, su una miriade di altre cose, sulla riduzione del costo del lavoro che fa PIL ci permette di... Ecco, allora, questa è un'opinione. Vabbè. Poi mi dispiace che questa è un'opinione ed è tale, adesso chiudiamo che poi ho anche la borsa. Detto ciò, da chi invece ha un ruolo amministrativo come presidente di una comunità montana, mi sarei aspettato... Allora, Fermo Alessandro, caro Barisoni, sono contrario al corridoio 5, secondo me non servirà. Detto ciò, siccome però non decido io l'interesse nazionale del paese nei rapporti esteri, chiedo per la valle almeno una verifica sulle compensazioni. Cioè, io sarei a proporle, fate avviare l'opera e poi state lì a guardare mese per mese se le compensazioni arrivano. Mi dica. Senta, allora siamo tutto meno che fessi. Allora, qui le compensazioni continuano ad essere chiacchiere. Allora, questo è un dato di fatto. Allora, lei da Roma non può dirmi che noi siamo degli ingenui perché non chiediamo le compensazioni. Neanche da Milano, diciamo. Da Milano. Certo. Queste sono chiacchiere che noi, ripeto, continuiamo a stigmatizzare. Il governo ha promesso un sacco di cose, non ha mai mantenuto. Allora, non vi fidate del governo e questo fate bene, ma non è un'opposizione alla TAV. È un'opposizione ragionata e oltre a questo, le ripeto, visto che non vogliamo il treno non chiediamo le compensazioni. Vabbè, basta, allora, finita così. Il governo non è in grado di darti dei crediti. Va bene, non facciamo più niente. Plano, ha ragione lei, siccome il governo è stato inefficiente e siccome siamo d'accordo con lei che la nostra politica abbia più di un difetto, non facciamo più niente, perché tanto le compensazioni, anche se le promettono, non arrivano. E tanto comunque voi siete contrari, perché tanto avete capito che il corridoio 5 non serve e la Trignone non serve. Io speravo di ragionare di altro, la ringrazio. Meteo, traffico, arrivederci e borsa. 17:52 minuti, chiedo scusa ai colleghi della viabilità per il ritardo. La borsa, CEO Condina, più 0,80%, no, sorrido per i messaggi. Anche gli insulti che mi arrivano, più 0,82% Milano, più 1,46% Parigi, più 0,90% Francoforte, più 0,80% Londra, l'America più 0,90%, non rispondo più a nessun messaggio sulla TAV, speravo di ragionare con le comunità locali sulle compensazioni necessarie, sui controlli, la posizione mi sembra assolutamente ideologica, visto che avete chiesto, invita anche, l'abbiamo invitata, avete capito, non vogliono le compensazioni perché tanto non ritengono l'opera da farsi importante. Fine. Se qualunque comunità in Italia ragionasse così, non avremmo l'alta velocità da nessuna parte, non avremmo neanche il Brennero. Poi qualcuno mi spiegherà un giorno perché raddoppiamo il tunnel del Brennero e nessuno si muove lì. Quella non è montagna. Va bene. Non rispetto le opinioni degli altri. Ragazzi, 40 minuti abbiamo parlato di TAV. Comunque, ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Monte dei Paschi, di nuovo pesante, meno 4,5%. Sì, Monte dei Paschi in corso all'aumento di capitale da 2,3 miliardi, perde in borsa, perde forte, mentre le altre principali banche guadagnano sull'onda di queste indiscrezioni che sono diffuse nel pomeriggio, che gli stress test delle banche italiane, tra cui la stessa Monte dei Paschi, avrebbero avuto un esito positivo, più del crollo di borsa, insomma meno 4% come dicevi tu di MPS, poi impressiona l'andamento dei diritti per l'aumento di capitale, meno 26,8%, segno che insomma non c'è grande appetito, per usare un eufemismo. Ecco, almeno tu usa gli eufemismi, visto che nella prima parte sono stati latitanti. Prismi al meno 2,43%, l'automatica meno 1,60%, Banco Popolare meno 1,5%, Luxottica meno 1,30%, Banca Popolare di Milano meno 1%. Allora, Prismian meno 2,40%. Ma guarda, qui non ci sono motivi particolari, ci sono realizzi, fondamentalmente segnalano gli operatori su un titolo che ha guadagnato parecchio terreno in tutto il 2011. Per gli altri, insomma, titoli negativi che segnalavi, il Banco Popolare e la Popolare di Milano sono istituti su cui ci sono ancora profonde perplessità, anche per le ricapitalizzazioni che si appresta a fare la Popolare di Milano. Il Banco Popolare, il mercato si interroga che se sia stata sufficiente già quella da 2 miliardi di euro. Molto bene Campari, e questo festeggiamo, più 4,70% e recupera oggi anche Fondiaria, più 4,36%. Sì, Fondiaria è un rimbalzo, diciamo un rimbalzo tecnico, anche in questo caso diamo uno sguardo ai diritti, meno 4,8%, il prezzo dei diritti sull'aumento di capitale di Fonsai, ricordiamo, un aumento record, 450 milioni di euro. Campari più 4,7%, qui non ci sono né report né analisti né particolari, diciamo, né particolari motivi, c'è un ottimo trend che da metà marzo ha visto il titolo guadagnare il 27% e addirittura ai massimi storici. Allora, gli altri titoli dopo il GR, oggi avevamo l'appuntamento con il nostro diario da Atene, mi sa che salta perché ho dato poco spazio alla TAV e quindi non abbiamo più spazio per il resto. chiedo scusa già a Cettina Livi, ci racconterà domani com'è vivere la crisi da Atene, una rubrica che inauguriamo questa settimana di Diario di Atene. Con te, Ceo, invece ci sentiamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Finiamo l'approfondimento di borsa e poi parliamo delle province, di come si sono già mosse sulle varie aliquote e poi anche da quello che sta uscendo dalla manovra. Farò un brevissimo inciso sulla TAV, però dopo aver fatto tre quarti d'ora sulla TAV con scarsi risultati, vorrei anche chiudere il tema. Allora, Ceo, dicevamo dei titoli, oltre a Campari e Fondiaria, bene oggi anche tutto il gruppo Fiat, più 2% sia Fiat Auto che Fiat Auto e che Fiat Trattori e Camion. Sì, Fiat beneficia ancora, anche ieri hanno guadagnato questi titoli, comunque Fiat beneficia ancora dell'accordo sui motori siglato con Suzuki. Fiat Industrial invece, c'è questo dato sugli ordini in Europa per le immatricolazioni per i veicoli non per i veicoli commerciali, che è andato molto bene, più 25% a maggio rispetto all'anno scorso, e quindi insomma è stato un ottimo dato per la società. Segnalerei anche Impregilo, più 2,5%. Qui, ahimè, dobbiamo tornare a parlare di TAV, però, perché praticamente ieri sera c'è stata questa sentenza in Pregilo, in quanto guidava questo consorzio che aveva fatto la TAV Firenze-Bologna, era accusata di danni ambientali e anche un maxi risarcimento di 150 milioni di euro. Ieri sera è stata assolta e quindi, insomma, visto che 150 milioni di euro non sono pochi, in borsa il titolo è andato molto bene. Allora, dicevamo di Unipol, volete sapere, avete ragione, Unipol oggi ha sofferto in borsa. Sì, Unipol stamattina, quando sembrava prendesse piede un nuovo attacco speculativo contro i titoli finanziari italiani, poi rientrato, è arrivato a perdere quasi il 10%. Sì. Poi oggi ha chiuso a meno 4%, che non è poco comunque. Non è poco, anche perché i finanziari oggi sono andati bene anche in Europa, segno che permangono le perplessità del mercato sulla reale tenuta di Unipol Bank, che è poi l'entità del gruppo più, insomma, diciamo, più sotto i riflettori in questo momento. Ecco, l'altra notizia riguarda oggi gli stress test, perché secondo indiscrezioni 15 delle 91 banche europee sottoposte a stress test non avrebbero superato i test. Le banche sarebbero tedesche, portoghesi, spagnole e greche. Le 5 banche italiane dovrebbero essere invece fuori, cioè avere superato questo test. Di questo ha parlato il numero 1 di Intesa San Paolo, Corrado Passera, da Pechino, con il collega del Sole 24 Ore Stefano Carrer, in occasione di una lezione magistralis che ha tenuto appunto lo stesso Passera all'Università di Pechino. Ha anche ricordato i vantaggi per le imprese italiane nello sbarcare in Cina. La Cina è una grande occasione per le imprese italiane, e non tanto come si pensava fino a qualche tempo fa, soltanto come piattaforma per poi attività nel resto del mondo. La Cina è sempre più importante come mercato in sé, sta crescendo solidamente anche come mercato di consumo e di investimento interno, e quindi per molte aziende italiane, sia nel campo dell'automazione industriale, sia nel campo del Made in Italy, sia nel campo della medicina, molto delle tecnologie legate all'ambiente, c'è grande spazio di crescita, e noi dobbiamo fare da ponte tra i due mondi. Ecco, i cinesi appaiono in questo momento preoccupati per la crisi dell'Eurozona. Lei, nei suoi incontri istituzionali, che messaggio ha ricevuto e che messaggio ha dato ai suoi interlocutori cinesi? Ma il messaggio su cui ci siamo sicuramente trovati d'accordo è che la crisi, o che il rischio di crisi del debito sovrano in Europa sia sicuramente gestibile, sia per la sua dimensione, sia per quello che l'Europa stessa può mettere in campo. Certamente non si vedono ancora i contorni definitivi della soluzione, però dalla collaborazione tra le istituzioni europee, i paesi europei più solidi, il sistema bancario europeo e i paesi naturalmente più dentro alla crisi, che devono fare la loro parte, una soluzione in tempi brevi andrà trovata. Ecco, lei si ritiene un uomo fortunato ad aver chiuso l'aumento di capitale esattamente poco prima che, con gli avvertimenti di Moody's, in borsa la volatilità dei titoli bancari superasse un po' i livelli di guardia? Beh, io credo che anche se avessimo un po' ritardato non sarebbe successo in termini di effetto per noi. Certamente abbiamo, credo, visto giusto quando abbiamo detto che c'era la possibilità di rafforzare ulteriormente le banche italiane e la nostra banca per poter meglio affrontare da una parte questa situazione di turbolenza e dall'altra parte darci le risorse per essere vicino al sistema economico italiano che deve crescere e crescerà nei prossimi anni e ha bisogno del sistema bancario vicino. Un'ultima domanda, sono in arrivo i nuovi stress test per le banche italiane e qualcuno si chiede, non è che il sistema bancario italiano somiglia un po' all'eurozona, cioè che ci possano essere delle periferie deboli in grado così di pesare sugli altri? Beh, il sistema bancario italiano ha sicuramente passato la crisi meglio di quasi qualsiasi altro sistema bancario e si dice ormai a livello mondiale che noi, l'Australia, il Canada, per certi versi anche la Cina, che però è un paese di banche pubbliche, siamo tra i paesi che hanno passato meglio attraverso la crisi. All'interno del sistema ci sono banche più o meno attrezzate per affrontare l'attuale situazione, però da quello che possiamo tutti vedere il sistema nel suo insieme tiene bene. Così Corrado Passera, intervistato dal collega del Sole 24 Ore Stefano Carrer da Pechino. Grazie a Cio Condina del Sole 24 Ore Radio Cor. Grazie a voi. Allora, sulla TAV abbiate anche un po' di pena per il conduttore. Abbiamo detto semplicemente che un conto è sul ponte sullo stretto, qui non hanno capito l'esempio, e il MOSE, grandi opere decise da un paese, lì si possono. Ma la TAV ha una particolarità, fa parte di un progetto europeo che prevede i corridoi europei. Allora uno si tira fuori dai corridoi europei e allora però poi basta parlare di commercio con l'estero, di autostrade, basta parlare di rotaia rispetto alla gomma, perché la TAV è tutta su rotaia, oppure accetta che per fare questi corridoi ci possono essere dei disagi pesantissimi in una valle che vanno compensati. Faccio notare, ma non era il caso, visto che tanto il presidente della Comunità Montana era contrario anche alle compensazioni perché non riteneva l'opera importante, che con le attuali dimensioni i vagoni merci non riescono a passare con la stessa frequenza. Sto fatto notare che l'alta velocità è una cosa un po' diversa, che non basta la rete attuale, ma tanto non c'era verso e non c'era modo. Chissà perché però la variante di valico in Italia si fa e dopo 20 anni si sta facendo, dopo 20 anni di code sulla 1, chissà perché si è fatta anche l'alta velocità sempre negli Appennini, a meno che gli Appennini non siano montagne meno importanti della Val di Susa. Grazie, e si farà anche il raddoppio del Brennero. Voglio dire, chissà perché alcune aree sono più importanti e altre meno. Una cosa dico chi scrive, tutto va bene, uno può pensare in maniera completamente opposta alla mia, perché però alcuni di voi hanno il vizio di dire ecco, lo fate perché ve l'ha chiesto Confindustria, per le lobby delle costruzioni, ma chi mica ha un interesse economico nella costruzione della TAV, mica la Confindustria si occupa della TAV e parla con Barisoni per la TAV. È un prevedere dietrologia ogni tanto, uno può avere anche le sue opinioni. Vabbè. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Illuminaci tu, no? Nel senso che purtroppo il tema che hai non è che riporterà in alto la gioia in questo programma, perché non solo oggi sono partiti 4 centesimi di accisa sulla benzina per trovare i soldi per l'emergenza emigrati e barconi, diciamo, dal Nord Africa, non solo il 1° di luglio partirà un altro centesimo in più per reperire i soldi per il fondo sullo spettacolo, e queste accise sappiamo che una volta che vengono introdotte non se ne vanno più, ma come anche Sole 24 Ore ha scoperto, le province, in attesa della manovra, le province e i comuni stanno portando rapidamente l'addizionale al massimo consentito là dove possono, e quindi nel caso delle province polizza RC auto. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta, allora Gianni Trovati, cosa sta capitando alle province e anche ai comuni quanto addizionali? Perché insomma si sono già mosse sull'RC auto, prego. Sì, sta capitando che la temperatura è molto alta, soprattutto dalle province. Anche dentro questo studio. Anche dentro questo studio e sul fisco provinciale ancora di più. Nel senso che il decreto sul federalismo regionale e provinciale attuativo del federalismo fiscale ha dato la possibilità alle province di aumentare un'addizionale che prima era fissa sull'RC auto, era sempre al 12%, 12,5%. Da quest'anno le province la possono aumentare o anche diminuire, ovviamente. La voglio vedere. Del 3,5%, è già 31 province, questo alle 2 del pomeriggio, non so se ce ne sono di nuove nel frattempo perché ho dovuto fare anche altro. Già 31 province, quindi insomma quasi una provincia su tre, hanno già scelto di aumentarla da quest'anno e di portarla al massimo al 16%, con un'unica eccezione, la provincia dell'Aquila, che bontà sua l'ha portata al 15,5%, quindi si è lasciata un altro mezzo punto di libertà. Questa raffica di aumenti ha un po' appunto scaldato il clima di nuovo della polemica sulle scelte delle province, ha riscaldato il clima delle polemiche su questa fase di avvio del federalismo fiscale e ha stupito un po' anche gli stessi, come dire, organi associativi delle amministrazioni locali. Ricordavamo oggi sul giornale che lo stesso presidente Lupi aveva mandato una lettera a tutti i presidenti di provincia dicendo: calma e gesso, non aumentate per carità quest'anno, perché vediamo prima che cosa succede, il quadro finanziario si schiarisce, eccetera. Ma evidentemente un invito abbastanza caduto nel vuoto, almeno in queste 31. Questo, diciamo, è abbastanza classico che quando tu dai la possibilità di aumentare le addizionali, questa possibilità in molte amministrazioni venga utilizzata, vuoi per il blocco del patto di stabilità interno, vedremo se la manovra interverrà su questo. Molte amministrazioni comunali sono virtuose, hanno soldi da spendere, non devono chiedere niente allo Stato, ma non possono spenderli perché è stata bloccata la spesa interna. Esatto. E questo, tra l'altro, ha anche il pessimo risultato di non premiare i virtuosi e di lasciare sostanzialmente intoccati i viziosi quanto amministrazione delle casse locali. Tra l'altro si stanno registrando anche aumenti sulle addizionali comunali IRPEF. Esatto, perché anche qui dopo tre anni è stato sempre il federalismo fiscale ha sbloccato parzialmente, perché il vero sblocco è previsto per il futuro, le addizionali che stanno debuttando anche in grandi città del nord dove non si erano mai fatte vedere. Cito il caso di Brescia, cito il caso di Venezia, e insomma c'è già alcune decine di comuni che stanno intervenendo, altri che hanno già messo in previsione un intervento sull'anno prossimo, e una terza categoria, tra cui dovrebbe rientrare anche Brescia, che hanno messo in cantiere un intervento sia per quest'anno sia per l'anno prossimo. Per non farsi mancare nulla, ad alzare l'imposizione sono stati anche comuni medio-grandi, dicevamo, Venezia, Brescia, Vercelli, Cremona, Carrara, Imola ed Empoli, e potenzialmente sono 3.500. Sono circa 3.500, cioè sono quelli che negli anni scorsi hanno tenuto più basso, oppure appunto come Brescia e Venezia non hanno proprio introdotto l'addizionale IRPEF, e che ora possono aumentarla. Tra i, come dire, possibili, però almeno c'è una polemica, ma probabilmente non è roba di quest'anno ma dell'anno prossimo, c'è anche Milano. E domani sarà ospite di Alessandro Milan, se ben ricordo, il presidente della provincia di Milano. Podestà, lì però, attenzione, è l'addizionale relativa alla parte dell'RC auto. Che Podestà ha aumentato ieri. Che Podestà ha aumentato ieri. Quindi ci sono già le compagnie di assicurazione che costano tanto. Esatto. E adesso avranno anche la scusa per dire: ma non siamo solo noi, ci sono anche le province che aumentano l'addizionale fissata in passato per legge al 12,5%, adesso le province ci possono mettere, o anche levare, un 3,5% in più. Finora nessuno. Volevo sapere. No, perché la notizia... No, finora nessuno, ed è improbabile. Stata se qualcuno l'avesse levata, ma dubitiamo. Comunque, se lo farà una provincia, invitiamo subito il presidente della provincia in trasmissione. Grazie a Gianni Trovati. Grazie. E adesso facciamo un aggiornamento invece dal decreto fiscale, quindi dalla manovra finanziaria. C'è un vertice alle 19, alle 18.45 per il Consiglio dei Ministri. Comunque, parliamo di manovra. Da quello che si è capito, a questo punto la manovra dovrebbe essere molto più ridotta nella sua prima attuazione, cioè 2011-2012. Chiedo conferma a Vincenzo Meglietta. Vincenzo, buonasera. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Sono uscite indiscrezioni di una manovra che non sarà di 7-8 miliardi nel 2012. 2011-2012, ma se abbiamo capito bene dalle fonti, 1 miliardo e 8 nel 2011, 5 miliardi e mezzo nel 2012? Sì, è così. È evidentemente l'interpretazione di molti, anche una mossa elettorale, qualora il governo dovesse arrivare a fine legislatura, comunque si vara al momento una manovra che ha un impatto minore, con conseguenze minori sulle tasche, tra virgolette, dei cittadini. Il resto della manovra, quindi, per arrivare ai famosi 40 miliardi, dovrebbe trovare spazio nel biennio 2013-2014. Sì, quindi, però è un biennio di elezioni, allora, questa cosa fa impazzire. Cioè, sì, il grosso della manovra dovrebbe arrivare nel 2013, quando, se il governo regge, va a elezioni. Assolutamente, evidentemente, però è un post 2013 o quantomeno un post i primi mesi elettorali. Cioè, se la becca tutta il prossimo governo, siccome sono 40 miliardi di manovra, se ne fai 7,5, diciamo, tra il 2011 e il 2012, ti avanzano, qui non bisogna essere un genio, ci arrivo perfino io, 32 miliardi per il 2013-2014. Ora, visto che il 2013 è un anno elettorale, dubito che sarà una manovra pesantissima, li scarichiamo sul 2014. Sì, sì, è questa la mia interpretazione, l'interpretazione di molti. Non voleva essere, cioè, non la volevo. No, no, ma l'ho detta io, Vincenzo, non ti metto in difficoltà, l'ho detta io. Comunque, le varie dichiarazioni, abbiamo visto un Bossi un po' ancora perplesso, prudente, ha detto com'è andata così e così. Altre reazioni? Parto proprio da Bossi, perché mi ricollego all'intervento tuo di pochi minuti fa proprio per i comuni virtuosi. Questo è forse il passaggio dove abbiamo visto un Bossi moderatamente soddisfatto, in quanto la novità maggiore di oggi è il fatto che Tremonti avrebbe dato la concessione ai comuni virtuosi di tornare a spendere, e Bossi su questo ha commentato positivamente, lo possiamo ascoltare. Noi siamo riusciti a ottenere il patto di stabilità per i comuni virtuosi, di modificarlo. Qui cioè, mi interessava il patto di stabilità innanzitutto. Quello cioè, in maniera da permettere ai comuni che hanno un sacco di miliardi di poterli spendere. Il governo rischia ancora? Rischia fin quando è passato. Ebbene, la manovra, sulla manovra bisogna lavorarci ancora. Quindi rischi ancora finché la manovra non è passata, però soddisfazione, come tu ricordavi, Vincenzo Miglietta, da parte del ministro e leader della Lega Umberto Bossi per la parte che riguarda i comuni, un tema su cui la Lega molto ha insistito. Altre reazioni? Soprattutto ci sono state reazioni a Tremonti, abbiamo visto un Galan poco fa, insomma dice no, sono soddisfatto, non mi piace un potere a un solo ministro. Prego. Sì, ricordavi giustamente Galan, che torna a sottolineare come Tremonti, secondo molti esponenti del PDL, agirebbe un po' troppo in maniera solitaria, versione questa però smentita di fatto da Alfano, di fatto segretario in pectore del PDL, che alla fine del vertice ha ricordato come oggi si sia ritrovata la collegialità nella coalizione di governo, elemento questo sottolineato anche dal ministro degli esteri Frattini. Poi c'è stato un caso curioso, come il ministro dell'agricoltura Romano ha anticipato un probabile taglio degli stipendi dei ministri sin da luglio, sì. Fatto questo che deve essere ancora confermato, mentre brevemente ricordo che invece dovrebbe trovare spazio nella manovra l'addio ai tagli lineari, e non ci sarebbe invece l'aumento dell'IVA pensionabile per le donne nel settore privato. Saccone ha confermato questo. Sull'IVA è ancora mistero, perché anche oggi il ministro Romani ha detto no, non ci sarà aumento dell'IVA. Beh, diciamo che abbiamo chiuso una puntata in salita, e non solo perché ci occupavamo di montagna, con una buona notizia: rinunciano al loro stipendio i ministri da luglio in poi, solo lo stipendio di parlamentare, vedremo se sarà confermata, ma il ministro dell'agricoltura Romano lo ha anticipato. Grazie Vincenzo Miglietta, ripeto, fra 20 minuti un vertice, un pre-consiglio dei ministri. Noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi, e prometto che faremo anche il nostro diario da Atene. Oggi molti scontri tra polizia e manifestanti nel centro di Atene. Ci risentiamo domani. Radio 24, la passione si sente.